Africa, Africa, won't you be free? My, my. Mama Africa, Africa, won't you be free? Oh, Africa, Africa, Africa, won't you be free? Is a plot against my people. Parigi be for us. Nobody can be. E quindi eccoci qui per questo sabato 22 di novembre, Radio Africa, trasmissione settimanale di Radio Onda Rossa dedicata alle sonorità del continente africano, che vi tiene compagnia dalle 16.30 fino alle 18. Sulle frequenze degli 87.9 di modulazione di Radio Onda Rossa. Africa, won't you be free? Mama Africa, Africa, won't you be free? As I know your system is a bluff against my people, but it shall be for us. 06 49 17 50 è il contatto telefonico. Radio Africa @ondarossa.info se volete scrivere la trasmissione. E come dicevano gli antichi, ripetita iuvant, il conto corrente postale 6180 4001 intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001 Via De Voci 56 Roma per sostenere Radio Onda Rossa. Like a bird in the sky. If you don't know, you don't know, you got to know. Oh, oh. Mama Africa is not free. Oh, free. Oh, free. Mama Africa wants to be free. E cominciamo con le nostre selezioni. Lui è Salif Keita dal suo album Talè, un album insieme a Roots Manuva, a Bobby McFerrin, a Esperanza Spalding. Il brano è A The Man. Salif Keita, il grande musicista maliano, albino, e da questo album Talè, il brano è Ademen, all'ascolto di Radio Africa, dai microfoni di Radio Onda Rossa, 87.9, la modulazione di frequenza. Lui invece si chiama Baba Mal e se seguiva le orme del padre sarebbe diventato un pescatore, invece sotto l'influenza di un amico di famiglia che si chiamava Mansour Sek, un chitarrista cieco senegalese, lui ha seguito la sua ispirazione ed è diventato un grandissimo musicista senegalese, una voce veramente interessante. Ha fatto molto nella sua carriera insieme anche agli Afro Celt Sound System, è stato prodotto da Brian Eno e qui ce lo ascoltiamo in questo brano che si chiama Jarabi. Lui è una delle più belle voci d'Africa, Baba Mal. Yeah. Baba Mal in questo suo Jarabi, e noi rimaniamo ancora nel Mali e andiamo a incontrare Tani Diakité, che è una vera e propria forza, perché lui si ispira, è ispirato tutta la sua comunità, e suona il Kamalengoni, che è una sorta di antenato del banjo, che è molto diffuso in Africa dell'Ovest. È uno strumento, il Kamalengoni, che ha origini nel Wassolu, una regione al confine fra il Mali e la Guinea, ed è chiamato lo strumento dei cacciatori, perché appunto si dice che lo usassero i cacciatori, ed è uno strumento che è conosciuto e suonato da centinaia di anni. E Tani Diakité ha incrociato le sonorità tipiche del Wassolu con questo blues ancestrale. Quando si dice appunto che le origini del blues probabilmente non sono esattamente sul Mississippi ma in Mali, Tani Diakité insieme a tanti altri artisti e musicisti maliani, insomma, lo dimostra. Una sezione ritmica molto potente e composta dagli Afro Funk Star, e allora noi ce lo ascoltiamo, Tani Diakité, in questo brano che si chiama Nungu Lumba. Sani Diakité e i suoi Afro-Funk Stars. E allora rimaniamo sempre in Mali. C'era un bar a Bamako che si chiamava il Bar al Bosone. 1995 era un luogo unico, molto particolare. Erano i momenti in cui la democrazia in Mali, insomma, cominciava a crescere, cominciavano dopo l'abbattimento del regime precedente di Traoré, si cominciava ad assaporare un certo fermento, fermento anche culturale, e la gente cominciava anche a esercitare questo diritto alla libertà, la libera espressione. Ci si trovava in locali dove appunto si faceva musica, ma anche si parlava di politica, del futuro. E questo bar era questo appunto Bar Bosò, dove si esibiva Lobby Traoré, questo musicista particolarmente abile, insieme a Alu Dembélé, a Binké Traoré, dove si suonava il djemba, il basso, le percussioni e la chitarra elettrica. Allora c'è stato qualcuno che ha raccolto queste caldissime serate di Bamako al Bar Bosò, registrando un album dal vivo che si chiama appunto Live at Bar Bosò 1995. E allora ve ne faccio ascoltare un pezzo. Questo pezzo si chiama Sigi Nyongon Sonfo, dal vivo, e lui è Lobby Traoré. era Lobby Traoré in questo brano dal vivo al bar Bosò 1995, 16:53 all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Loro si chiamano Adam Koita e i Fanfalla Tony Bolo. Kasi de muna fanta ine jiche kasi tu mama se fanta ni pala dumi kasi de muna fanta ine jiche kasi tu mama se ala edo aluge wariti baye fanta ni pala yo kasi tu mama se. Anana don't look at Bolo Colony, Oloma for Hidi Alama Cassit Mamma say. Fantani Fala Dumi Cassidi Muna, Fantaine DJ Cassit Mamma say. Get around that don't valet the lily, Kelani better get a boy, Cassit Mamma say. Sirabadalu fale delili kelani bete grebuye kasit mama se. Getoronda du fale delili kelani bete grebuye kasit mama se. Fantani fala dumi kaside muna fantai nyejiche kasit mama se. Fantani fala yo, Fantani fala, kasit mama se. Ala edalu ke wariti baye, oluma fuidi alama kasit mama se. Fantani fala dumi kaside muna, Fantai ngejiche kasit mama se. Kasit mama se. Kasi tu mama se, kasi tu mama se, kasi tu mama se, kasi tu mama se, kasi tu mama se, kasi tu mama se. Adama Koita, i suoi fanfallato, i Bolo, e questo brano fa parte di un album che si chiama Maison de Gênes. Maison de Gênes è un progetto di un collettivo, African Express, che è già conosciuto perché ha già fatto un altro album e ha cercato di gettare un ponte fra musicale fra il Mali e l'Inghilterra, un'operazione che è stata portata avanti da Damon Albarn dei Gorillaz in un suo viaggio in Mali, accompagnato da altri musicisti europei, fra cui anche Brian Eno, e loro sono ritornati questa volta a registrare in un posto a Bamako che si chiama la Maison des Jeunes, la casa dei giovani, dove però hanno voluto registrare insieme a dei gruppi di giovani emergenti, di musicisti che hanno innovato, che stanno innovando la musica maliana. Il brano di apertura è proprio quello che ci siamo ascoltati, di Adama Koita e i suoi Fanta Failato, i Boilò, che è prodotto da Twinge Punch e che inizia appunto questo ritmo, che è un ritmo che ha una groove di calabas, ma poi la musica prosegue, c'è una cora, ma ci sono anche degli elementi ritmici decisamente contemporanei. Questa è un'evoluzione della musica maliana, che poi spesso ultimamente si va anche a incontrare con il genere, per esempio, elettronico, anzi si presta per certi versi, per il suo tono ipnotico, per questi suoi ritmi un po' sincopati. Allora c'è un gruppo prodotto da Mark Minnelli è un musicista svizzero che ha conosciuto la musica maliana e anche sposato con una musicista maliana. Il gruppo si chiama Electro Bamako, appunto ha incrociato queste sonorità elettriche con la musica maliana. E allora il brano che ci ascoltiamo è Warrior e loro sono gli Electro Bamako. La ville, quelle est la ville? Kodenye ma wono teja musubela Kotuma peta teja de melanga Lile, kele la lile Jane kolo ya keleke uho Basar na cheba ya ke keleke lo Jama ma joko kelebo kuma Kobasa kele mada dene ed è questa voce bellissima, questo brano è Bassakele dall'album Nakan, un album prodotto dall'etichetta Casept. E se lei ha cominciato a suonare ascoltando il padre, che era un balafonista piuttosto affermato, e anche la madre era una cantante, e accanto a loro ha cominciato a imparare a cantare, cantava durante le feste dei villaggi, adolescente cantava per incoraggiare i contadini nei campi, ma poi ha deciso di intraprendere un suo percorso, ha abbandonato il suo villaggio, è andata a Bamako, dove è entrata come corista nel gruppo di un'altra grandissima cantante, Oumou Sangaré, e poi qui naturalmente si è fatta le ossa, ma voleva insomma a tutti i costi fare qualcosa di suo. Infatti questo album Nakan fu prodotto da Casette, lei riuscì comunque a intraprendere questo percorso, iniziò appunto nel 1998 a produrre con questo album, e anche lei, come avete potuto ascoltare, mescola insomma questa voce e i canti tradizionali del Vassolù con con anche musica elettronica. 17.08, questa è Radio Africa e voi siete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Vi ricordo il contatto telefonico che è 06 49 17 50. Allora c'è un altro abile mescolatore di suoni, Bodhisattva. Lui viene dalla Repubblica Centrafricana ed è un DJ, un produttore che mette insieme moltissimi generi. L'album Invocation, l'ultimo che ha fatto, è con Freddy Massamba, con Zeppe Chegno, con Mangala Camará, e quindi mette insieme musica brasiliana, musica africana. E un brano di questo album, Ngari Konon, e con Oumou Sangaré, questa splendida cantante maliana, una musicista che è diventata un punto di riferimento anche per la società civile del Mali. Ai suoi concerti gli uomini accompagnano le signore, rimangono fuori ad aspettarle in macchina, perché nei suoi concerti non entrano gli uomini. Lei lotta, combatte per l'emancipazione femminile in Mali, ed è diventato un punto di riferimento non solamente per tutte le donne ma anche per la società civile in genere. Allora Oumou Sangaré insieme a Bodhisattva in questo brano. Solo un kele na kele mandi mwadanyi itumana ridunu ya sibantolama lalikam mehala mwadanyi itumana ewasono nyari kono nyari kono nyari kono ayi kaimala kunandi maneri kolo wasono mwadanyi itumana Nandi maneri kolo Nyari kono Nyari kono Nyari kono Nyari kono Wakai mae umudoka wasolo Wasolo gaya unaka Okele na kele mandi wasolo Mwadanyi tumana rijinonya Nyari kono Nyari kono Nyari kono Nyari kono E questo brano si chiama African Trip, African Trip, viaggio africano, e degli Anachronic Electro Orchestra insieme ad Ami D. E loro sono un gruppo di Tolosa, un gruppo di Tolosa che mescola abilmente musica yiddish, elettronica e dub, e si è incontrato con questo musicista maliano, appunto Ami D, in questo brano African Trip, un brano molto molto interessante. Siamo sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, questa è Radio Africa. Allora, una richiesta, loro si chiamano Iture Kunda e il brano è Emma. Fratelli Touré, che noi abbiamo Touré Kunda, che abbiamo conosciuto un po' di anni fa con uno splendido doppio live a Paris, Ziggy Inshore, in cui appunto c'era Emma, ma tanti altri brani veramente veramente belli. E allora 17:22, questa è Radio Africa e voi dovunque siete sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, e Radio Africa fa un bel salto, se ne va in Etiopia dal Senegal, dove stavamo, e lì incontriamo gli Invisible System. Dan Harper aveva cominciato ad andare in Etiopia per lavoro e poi piano piano è entrato nella scena musicale locale e quindi ha costruito un suo studio e ha invitato in alcune jam session i musicisti locali, e il risultato è stato gli Invisible System, un gruppo sperimentale, un work in progress fra musicisti etiopi che sono collegati con il gruppo di Dub Colossus e che fanno musica etiope e anche e dub. E allora il brano che ci ascoltiamo degli Invisible System è questo Mama Yei. Mama, yeah. I could do realize Sono i Dub Colossus, che è un'operazione fatta da Nick Page, compositore, chitarrista, musicista di basso, produttore, programmatore. Nick ha lavorato a lungo con vari progetti. Nel 90 ha formato i Trans Global Underground con Tim Whelan e Amit Mantou, e poi nel 2006 un progetto con alcuni musicisti etiopi, fra i quali la Edith Piaf della musica etiope, Mimi Zenebe, e questo brano che ci siamo ascoltato di Dub Colossus, Guerra Ginia, è tratto dal loro secondo album Addis Through the Looking Glass, e appunto questo incrocio fra la musica etiope, il reggae e tante altre cose. E allora rimaniamo ancora in zona, loro sono le Walias, lei si chiama Fanaye Tesfaye e il brano è Chewa Ya. Thank you. lei si chiama Fanaye Tesfaye ed è una musicista. Questo brano Cewaya insieme al suo gruppo che è uno dei gruppi, la Medina Band, è apparso in cassetta nel 2002, poi gli eventi bellici dell'Etiopia hanno interrotto la carriera di Fanaye Tesfaye, ma questo brano è un brano che poi ha anche delle rimembranze un po' latine, insomma, e ci dimostra anche come la musica etiope sia una musica che ha abbracciato tantissimi, nonostante l'Etiopia sia un paese che è sempre stato indipendente, ha abbracciato comunque, ha avuto anche un'apertura mentale da parte degli artisti notevole, ha abbracciato molti generi musicali, tant'è che si parla di Etio Jazz, non si sa bene se in maniera fondata o meno, comunque la musica tradizionale etiope è riuscita ad amalgamarsi con tante correnti musicali, un percorso quello della Swinging Addis ai tempi degli anni 70, che era una, prima del colpo di stato di Mengistu, che era una città a Addis Abeba molto vivace, dove c'erano appunto molti locali, si faceva musica, e poi appunto gli eventi bellici in qualche maniera hanno stroncato questa crescita artistica e musicale. Però rimane una grandissima tradizione dal punto di vista musicale. Ancora rimaniamo con uno dei musicisti, uno dei veterani della musica etiope. Lui si chiama Gechawe Mekuria e ce lo ascoltiamo lui è un sax tenore, e ce lo ascoltiamo in compagnia un po' curiosa con un gruppo olandese che si chiamano gli X, un gruppo che ha avuto anche delle venature un po' punk. Loro lo hanno incontrato, sono rimasti colpiti dalla sua bravura, poi appunto lo hanno chiamato per festeggiare il compleanno del gruppo. E allora i Geta, cioè Mekuria e gli X. Guetta, cioè Mercuria, classe 1935, lui ha suonato con la band della Polizia di Stato ed è uno dei musicisti, perché all'epoca i gruppi musicali in Etiopia, quelli che si potevano permettere gli strumenti e anche di fare i tour in giro per il paese, erano quelli finanziati dalle istituzioni statali, e poi è stato uno dei musicisti che ha preso a cuore la shelela, che è un genere della tradizione vocale etiope, che è un canto cantato dai guerrieri prima di andare in battaglia. Gli ex lo hanno conosciuto, questo gruppo olandese un po' avanguardia, un po' punk, lo hanno conosciuto e l'hanno invitato appunto a suonare al loro 25° anniversario ad Amsterdam nel novembre del 2004. Allora, all'ascolto di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza, questa è Radio Africa. La comunità etiope si è sparsa nel mondo, la diaspora etiope è molto, molto numerosa, ma produce naturalmente anche fuori dai confini dell'Etiopia. Lei si chiama Ejigayehu Shibabwa, conosciuta come Gigi, ed è una cantante etiope. Lei è nata nel nord-ovest dell'Etiopia, poi se n'è andata in Kenya per arrivare nel 1998 a San Francisco, dove è stata notata da Chris Blackwell e dalla sua Island Record. E allora di Gigi ci ascoltiamo Goodfella. Cut and flash of a dog, give me the mic, my music out. Goodfella dall'Etiopia, ma quella della diaspora, loro si chiamano Bole to Harlem, è un progetto di Mutra che c'è un ponte fra Addis Abeba e Harlem, un album che è un incrocio fra l'hip hop e la musica etiope. Questo è il primo volume al quale ancora almeno non è seguito un altro, ma questo è stato molto interessante e ci basta ancora volentieri lo ascoltiamo. Questo è stato un progetto che appunto mescola questa musica tradizionale con le influenze musicali di Harlem. Bole è l'aeroporto di Addis Abeba e Harlem appunto è Harlem, e quindi il brano che vi faccio ascoltare si chiama Aya Belle. ኢትዮጵያ ላይ ባደረገው ወረራ እስከ 500 ሺህ ኢትዮጵያውያን ነፍሳቸውን አጥተዋል። Allora, 17.53, questa è Radio Africa e voi siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza. Sfumiamo questo brano di Bole to Harlem, ma anche perché poi il tempo, come dire, è tiranno. Perché insomma volevamo un po' riprendere le fila del discorso per quanto riguarda gli avvenimenti del Burkina Faso, che hanno avuto un'evoluzione. C'è stato un accordo fra la società civile e i militari, una carta di transizione che ha visto la scelta da parte dei militari del nuovo presidente che dovrà traghettare la transizione verso le elezioni del 2015. Il presidente prescelto è Michel Kafando, un personaggio che ha circa 72 anni, che è stato rappresentante del Burkina Faso alle Nazioni Unite, una persona di esperienza che sicuramente conosce la politica burkinabè, ma è anche un personaggio che è stato legato al potere di Ouédraogo, che era il presidente che poi fu defenestrato dalla rivoluzione sankarista nel 1983, è un personaggio che comunque è legato in qualche maniera anche a quei poteri che sono sempre stati presenti in Burkina, e lui ha nominato come primo ministro colui che dovrà scegliere poi il governo, proprio Zida, che è appunto l'uomo forte, il militare, l'uomo forte del Burkina. Ha fatto un discorso di investitura che è stato supportato, seguito anche dal punto di vista dell'attenzione rispetto ai paesi circostanti da vari presidenti, quello del Senegal, quello del Ghana, che sono venuti all'insediamento, e ha fatto un discorso in cui ha cercato, diciamo così, di dare un cerchio di surfare attraverso le varie esigenze, le varie sensibilità che hanno innervato questa rivolta burkinabè, e ha stretto anche un occhio ai sankaristi, per così dire, perché appunto ha detto che adesso le indagini per quanto riguarda gli assassini di Sankara per quanto riguarda anche le indagini che devono verificare se effettivamente c'è il corpo di Sankara lì dove c'è la tomba, verranno avvocate direttamente al governo, quindi se ne è fatto carico personalmente, e questa, diciamo così, dopo tanto tempo è la prima volta che un rappresentante istituzionale del Burkina Faso fa riferimento a questi eventi. Ma il fatto che sia Sida, cioè l'esercito, a scegliere poi i ministri fa ancora presupporre come questa transizione sia in mano ai militari. La scelta di Kafando non è stata ben accolta negli ambienti, soprattutto universitari, giovanili, che hanno sostenuto la rivolta burkinabè, poiché insomma si suppone una certa continuità. La Costituzione, quella di Compaoré, rimane in piedi, quindi si andrà alle elezioni del 2015. Ci sono stati poi dei commenti che sono stati da una parte insomma interlocutori, dall'altra positivi rispetto anche a quello che ha detto Kafandé, però è evidente che è una scelta soprattutto che lascia ancora in mano ai militari le possibilità di scelta e di guida di questa transizione. Si susseguono nel frattempo le varie analisi su quello che è successo, insomma, e già vedendo un po' sui vari siti, soprattutto su Fasonet, che è un sito che raccoglie i vari commenti che provengono appunto dal Burkina su questa transizione, c'è un interessante articolo di un economista che parla della rivoluzione insurrezione popolare del 2014. Ouédraogo si chiama questo economista, che afferma che appunto uno dei motivi fondamentali della rivolta burkinabè è stata proprio la presenza di questi nuovi ricchi, questa differenza enorme che c'era fra questi nuovi ricchi, che diventavano tali attraverso i contatti con l'entourage di Compaoré, che cominciavano a fare affari con loro, ed erano diciamo così anche dei ricchi spudorati che mostravano le loro ricchezze nel contesto di un paese che è uno dei paesi più poveri del mondo, dove le differenze sociali sono enormi. E questo è naturalmente questa difficoltà di questa presenza di una classe che sostanzialmente legata al potere di Compaoré, che faceva che si arricchiva e che contestualmente impoveriva le già scarse risorse del paese, è stato uno dei motivi per cui i rivoltosi si sono anche accaniti contro i simboli di questa ricchezza, contro i personaggi che erano simbolo di questa ricchezza, che a volte erano semplicemente delle teste di legno degli interessi concreti, reali di tutto l'entourage di Compaoré. Ma c'è in tutto questo discorso che si sta facendo in questo processo in Burkina Faso un convitato di pietra, che è appunto Thomas Sankara, come appunto poi possiamo trovare nelle discussioni che vengono riportati in questi siti. Ci sono persone che ricordano come alla base della rivolta ci sia stato anche l'insegnamento di Sankara, che non è stato dimenticato in questi 27 anni di potere di Compaoré. Questo processo di transizione è stato accompagnato dalla CEDEAO, cioè dalla Comunità degli Stati dell'Africa dell'Ovest, è stato anche sostenuto in maniera abbastanza nell'ombra, ma in maniera consistente dai francesi. Quindi diciamo che questa transizione ancora lascia tutto in sospeso, soprattutto perché poi il Burkina Faso ha bisogno di fondamentali riforme, di cambiamenti forti, di discontinuità con il potere precedente. Sicuramente un personaggio come Kafando non è di quelli che possa garantire questo, nonostante le sue affermazioni durante il discorso di investitura riguardo a Sankara, però sicuramente non può garantire questo processo di transizione, questo cambiamento che invece il popolo burkinabè richiede. E l'uomo forte rimane Zida, il militare, il colonnello, che oltretutto proviene dalla RPC, che sarebbe la guardia presidenziale di Compaoré, quindi molto vicino al potere di Compaoré. È vero che si è rifiutato di sparare sulla folla durante le rivolte di fine ottobre, ma ciò non toglie che comunque proviene appunto da quell'entourage, da quel potere di Compaoré. 18.01, finisce qua il tempo di Radio Africa. Naturalmente continueremo a seguire le vicende del Burkina Faso, anche perché poi sono vicende che si stanno riflettendo sul resto dei paesi africani. Basti pensare che solamente l'altro ieri ci sono state delle manifestazioni che sono sfociate in una violenta guerriglia in Togo, a Lomé, dove appunto l'opposizione in vista delle prossime presidenziali è scesa in piazza contro il potere di Gnassi Mbé, che è il figlio del vecchio presidente, quindi una continuazione generazionale di questo potere da parte di personaggi che appunto ormai hanno impoverito ancora di più questi paesi. E quindi insomma il Burkina Faso potrebbe essere un esempio anche per altri paesi che versano nelle stesse condizioni dal punto di vista istituzionale e anche economico. Quindi la facciamo finita qui, 18.02, vi lascio in compagnia di Soul Peanuts e il suo jazz fino alle 19.30, quindi rimanete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. ከነው ይወሰይኔ ለያ ኃይሉ ቁማ ባሪኔ ለኑሉ ዑክዝና አርሐይኔ እንንደዶ ዲግግ ተቀርኔ አካ ባህኔ ከነዲጌ አለና ሐስሉም ላሜ ግድዕይ መጋና አምድዕኔ ይነደልቴ ምንኮን ስሬ Ready.